Non ci sono più le mezze stagioni, di Roberta Giordano. E cari ascoltatrici, cari ascoltatori, una conferma, secondo me ogni volta ne abbiamo di conferme, no? Non ci siano più le mezze stagioni, e anche questa, a parte mi sentite affannata perché da una settimana ancora l'influenza non se n'è andata, non so se questo sia conferma o smentita del fatto che non ci siano più le mezze stagioni, ma per esempio, parlando degli spazzolini, no? Gli spazzolini da denti, non sono più quelli di una volta. Uno si trova bene con uno spazzolino, insomma, lineare, essenziale, un normalissimo spazzolino. Uno si dice che si dovrebbero cambiare ogni 6 mesi, dicono i dentisti, non so se è consumismo, ma più o meno, uno lo tiene poco di più. Poi, quando va al supermercato, a qualche parte, insomma, per rinnovarlo, si trova improvvisamente davanti a una selva, proprio disorientato, davanti a una selva incredibile di spazzolini di ogni tipo. Tu cerchi, cerchi, affannata, disorientata, il tuo non c'è più, non c'è più. E li trovi veramente anche di, come si può dire, di inquietanti, di stranissimi, di futuribili, lamerotanti, setole spruzzanti, poi le setole anche fuorvianti, no? Una in una direzione, una nell'altra, una in un'altra ancora. Insomma, non c'è uno spazzolino con delle setole tutte nella stessa direzione. Uno dice, boh, è possibile, il mio spazzolino andava così bene? No. Se voi fate passare più di 6 mesi da quando avete comprato lo spazzolino, non lo troverete più. Passano di moda più velocemente dei jeans, modelli di jeans, di scarpe, insomma. Non ci sono più le mezze stagioni, ma torniamo a noi, come sempre qui il sabato è l'appuntamento per fare un po' un bilancio dei fatti della settimana e ritornare a riflettere sulle cose che sicuramente vi hanno colpito, vi hanno fatto magari discutere con amici, familiari, sul tram, da qualsiasi altra parte. Allora, qual è la notizia che vi ha colpito di più questa settimana e sulla quale volete tornare a riflettere? Numero verde, scusate l'influenza, non c'è niente da fare, 800 24 00 24, numero verde 800 24 00 24, ma prima di tutto, naturalmente, non posso esimermi, ci mancherebbe il protagonista, dal salutare, attenzione signore e signori, l'ospite che sto per presentarvi. Arrigo Petacco, Arrigo? Eccomi qua. Arrigo Petacco è il mio opinionista estemporaneo oggi, staremo insieme fino alle 15 come sempre con l'ospite e mi aiuterà a dare insieme a voi ascoltatrici e ascoltatori delle angolazioni diverse da ogni fatto della settimana, quelli che, insomma, di cui ci capiterà di parlare. Arrigo Petacco è lo conoscete da tanti anni, è sulla scena intellettuale e culturale italiana, è giornalista, inviato speciale, ex direttore della Nazione, ha sceneggiato diversi film, ha realizzato molti programmi TV di successo, ha scritto un sacco di libri e l'ultimo qui tra le mie mani pubblicato da Mondadori è Il Regno del Nord. Io avevo pensato, Arrigo, che tu ne facessi una questione politica attuale, invece il sottotitolo è 1859, il sogno di Cavour infranto da Garibaldi, che in realtà ha in qualche modo un collegamento, no, con il dibattito attuale degli ultimi anni tra uno Stato nazionale e un'Italia federale, così, Arrigo? È così, effettivamente. Ma l'Italia doveva essere, nel sogno di Cavour, nel progetto di Cavour, l'Italia doveva essere federale, anche se poi lui è passato la storia come il grande tessitore dell'unità nazionale. Lui non la voleva affatto, la considerava addirittura una tragica corbelleria. Una tragica corbelleria. E tu quindi in questo libro... Che cosa racconti e che nesso ci può essere, non so, con le ambizioni, vogliamo dire, leghiste, ma non so, ci sono anche sul federalismo fiscale, adesso ci sono più persone, più schieramenti convinti, diciamo, no? Più aree. No, qualcuno effettivamente mi ha dato del leghista, io non lo sono affatto, però ho soltanto raccontato che all'epoca in cui nacque l'Italia, i maggiori pensatori del momento, da Gioberti a Cavour e altri, erano tutti, a Cattaneo per esempio, erano tutti federalisti, ritenevano impossibile unificare degli stati che erano storicamente separati da secoli, insomma. Solo Mazzini, che era un utopista, pensò a questo, e Garibaldi lo realizzò contro il volere dello stesso Cavour, che cercò in tutti i modi di fermarlo. Però ci riuscì, e per fortuna, io sono contento, perché hanno fatto l'Unità d'Italia. Però ricordiamoci che all'epoca era più logico forse fare una federazione di stati, come Cavour proponeva insieme a Napoleone III, una bella federazione di 3 stati importanti, ciascuno col suo destino, che sarebbe stato sicuramente diverso, soprattutto per il meridione. E quindi ci provarono, ma non ci riuscirono. Infatti sono andati in maniera diversa e purtroppo, per fortuna, non lo so, le cose sono quelle che sono oggi, dove effettivamente, se ci pensiamo bene, questa unità vera non c'è ancora affatto. A nord almeno non la pensano così. Beh, insomma, a me dispiace, ma comunque non è questa la questione di oggi, è il contenuto del libro di Enrico Petacco, dell'ultimo libro, Il Regno del Nord. Ma noi, come sempre, invece ci soffermiamo poi sui fatti della settimana. Il numero verde, ve lo ricordo, è 800 24 00 24, e direi che, insomma, togliamoci così l'occasione, chiamiamola in questo modo, di avere anche un punto di vista extraterrestre. Riflessioni da Marte. Questa volta da Marte guarderei all'italica politica e alla sua epoca alquanto fatidica, perché dato che avvince assai di più la politica, intendo, di qualsiasi fiction TV. Nella più recente puntata la Consulta si è consultata e ha deciso che di Alfano il lodo non era costruito a modo. Esultano gli uni, aborrono gli altri, il premier protesta e lancia in resta, accusa Consulta e Napolitano di non aver teso la mano ed essere anzi di una sola fazione. Sì, risponde il capo dello Stato, quella della Costituzione. Berlusconi quindi se la prende con la Bindi. È più bella che intelligente, commenta il riverente. Non sono una donna a sua disposizione, ribatte ella con indignazione. Beh, è più alto che educato, tosto la Melandri ha replicato. E seppure tra la presidenza del Consiglio e il Quirinale la mediazione si è tentata, si resta in attesa, come davanti a Beautiful, della prossima puntata. Caro Arrigo, se tu dovessi dire qualcosa che ti fa pensare ai nostri tempi che non ci siano più le mezze stagioni, cosa ti viene in mente? Le mezze stagioni forse non ci sono mai state, a mio parere. Ah. Il lamento di non ci sono più le mezze stagioni è il lamento dei vecchi che ricordano con nostalgia i tempi, quelli che loro chiamano tempi migliori, tempi, bei tempi. I tempi della loro gioventù, è quello il punto. E quindi criticano il momento in cui vivono proprio perché pensano che quando erano loro giovani le cose fossero diverse, ma in realtà non lo erano affatto. C'era solo il fatto della gioventù. La sai la storia di quella principessa francese, vecchia principessa francese, che ricordava con nostalgia la rivoluzione? Diceva: ah, io mi ricordo la rivoluzione, ero giovane, mi ricordo tagliavano le teste ai nobili, mi ricordo Robespierre, Danton, Marat, ah, bei tempi. Uno dice: ma principessa, bei tempi, ammazzavano gli aristocratici. Avrebbe ammazzato pure lei. Cosa è vero, ragazzi, ma io avevo 20 anni. rimpiangere perché era in ogni caso gioventù. Senti Arrigo, poi passiamo ai fatti della settimana, ci sono gli ascoltatori e le ascoltatrici che stanno cominciando a chiamare al numero verde 800 24 00 24. Tu ritrovi il tuo spazzolino da denti quando lo vuoi rinnovare, vai a comprarlo, c'è? C'ho proprio questo problema da qualche tempo, perché è vecchio, però ci sono affezionato. Forse è meglio tenerselo stretto. Non lo ritroverai, sappilo. Questo però cosa significa? Che cambia qualcosa? Evidentemente sì, non è possibile più avere lo stesso spazzolino, una certa continuità almeno in quello, una certezza, neanche lo spazzolino. La continuità c'è in tutto, io ad esempio sono uno di quelli che rifiutava il telefonino, il cellulare, anzi lo odiavo, poi però ho capito cos'era e ora non ne posso più fare. Infatti stiamo parlando col tuo cellulare. È la tecnica che cambia i nostri gusti. Allora, cominciamo a sentire un po' i gusti rispetto alle notizie della settimana e le riflessioni delle ascoltatrici e degli ascoltatori. C'è Sara da Trento. Sì. Sara. Non ho capito, scusa. No, Arrigo, cominciamo a sentire, dicevo, le telefonate degli ascoltatori e c'è Sara in questo momento che chiama dal Trentino. Sì. Sì. Buongiorno signorina e complimenti per la trasmissione, troppo bella. Grazie Sara, però ti prego, puoi non chiamarmi signorina, mi viene un po' l'orticaria. Chiamami Roberta. Va bene Roberta, scusa. Grazie Sara. Sì. Va bene, senti, io volevo fare un'osservazione sulla frase che ha detto il Presidente del Consiglio, riferita alla signora Bindi, sì. Che adesso dicendolo qua non è una persona che rispetta i canoni di bellezza del signor Berlusconi. È probabile. Però io credo che quella frase lì sia veramente vergognosa. Sa cosa avrei risposto io al signor Presidente del Consiglio se mi avesse detto una cosa del genere? Si può dire in radio? Sì. Le avrei detto: io non verrei a bere un caffè insieme a lei perché mi rovinerei la reputazione. Mi scusi, perché cioè, è stato veramente molto molto sgradevole. Cioè, in fin dei conti la signora Rosy Bindi mi sembra una persona intelligente e quando una persona è intelligente, essere bella o non essere bella è una seconda ipotesi che probabilmente non serve neanche nella vita, o no? Senti, ma Sara, secondo te ha offeso soltanto Rosy Bindi o come dicono in molte, un po' tutte le donne, perché ritorna fuori, dicono il suo modo, insomma, di concepire... Lui, a me sembra, quando vedo lui, di vedere un sceicco della rabbia che vorrebbe avere un bel harem, capito? E scegliere lui chi può sedere al suo fianco per quel momento, ok? Cioè, io come Presidente del Consiglio lo rispetto, come uomo le dico la stessa cosa, non andrei neanche a prendere un caffè insieme a lui. Grazie Sara, questo è interessante. Prego. Sara ha fatto questo distinguo, come uomo politico, Presidente del Consiglio lo rispetto, però come lui considera le donne non mi piace affatto. Arrigo, intanto adesso tra pochissimo c'è la viabilità, però te la lancio lì, tra i quotidiani di oggi, qua c'è il Fatto Quotidiano, no? Che sai che è uscito da poco, il giornale di Padellaro, Marco Travaglio, e ha sopra il titolo... due righe dove dice in bella vista: forse non lo sa, ma le sue volgarità sulla Bindi hanno offeso anche molte donne del PDL, faccia un sondaggio. Mi piacerebbe che chiamassero anche donne, diciamo palesemente di centrodestra e di orientamento politico verso centrodestra, e dicessero la loro anche su questo fatto. Roberta Giordano sempre con voi per commentare insieme le notizie della settimana. C'è Arrigo Petacco in collegamento, giornalista, inviato speciale, sceneggiato molti film, ha scritto un sacco di libri, l'ultimo questo, Il Regno del Nord, 1859, due punti, il sogno di Cavour infranto da Garibaldi. Allora Arrigo, poi se tu vuoi tornare sulla questione che affrontava prima l'ascoltatrice Sara, ci torniamo naturalmente tranquillamente. Faccio un riassunto proprio estremo di alcuni dei fatti di questi giorni. Naturalmente l'alluvione, la tragedia di Messina, quei funerali di Stato che ci sono stati questa mattina. Il Nobel per la pace, così inaspettato a Obama, che cosa si potrebbe definire? Auspicativo, aspettativo, qualcuno l'ha definito preventivo, il premio al sogno, il premio alla speranza, cioè qualcosa che deve ancora... Credo che aveva sorpreso soprattutto Obama, che certamente non se l'aspettava. Ma sai, i giudici norvegesi sono strani, hanno un umorismo nordico che a volte non si capisce. Ah, un umorismo, dice. Nobel a Fox, per esempio, hanno dato il premio Nobel a quel signore che si chiama Luis Borges, che era il più grande scrittore che sia mai stato in Argentina, non gli hanno mai dato semplicemente perché Borges non amava la democrazia, era solito dire che lui non riconosceva perché 90 teste di rapa fossero più brave, più importanti di 10 teste pensanti, era un suo giudizio. Suo, sì. Io sono per la democrazia perché ritengo che... sia il meno peggio dei sistemi politici che finora abbiamo sperimentato, però non gli ha dato il voto, non gli ha dato il premio per questo, è andato il premio magari a questa signora rumena che sarà sicuramente bravissima, non lo so, però quasi quasi sembra che abbiano scelto, come dire, rispettato le quote rosa anche in questo caso. Arrigo, cosa mi tocca sentire? Che c'è? Non voglio fare il maschilista, però francamente questa signora bravissima, per noi non mi sembra. Allora possiamo dire che magari c'erano altre scrittrici migliori di lei, di Erta Müller. Io ho scelto loro, perché i norvegesi in queste cose, anche in molte occasioni, avrai notato che tutti quelli che vengono candidati dall'opinione pubblica, dalla stampa, immediatamente vengono bocciati. È un po' come quando si dice che in conclave chi entra, come il candidato Papa esce cardinale. E loro fanno così. Io credo sia anche una forma di umorismo nordico che noi non riusciamo forse ad afferrare. Così un po' per spiazzare. Adesso vado avanti con alcune altre notizie, le elenco velocemente. Poi sentiamo anche se le ascoltatrici e gli ascoltatori vogliono ritornare, per esempio, appunto su questo Nobel della pace a Obama. Poi tra i fatti grossi, la boccia del lodo Alfano con lo scontro istituzionale che ne è seguito, Berlusconi che dice i giudici sovvertono il voto, io sono il più perseguitato della storia, la sentenza Mondadori con la famiglia Berlusconi che è stata condannata a pagare 750 milioni di euro a favore della CIR di Carlo De Benedetti per aver sottratto appunto comprando la sentenza la Mondadori a De Benedetti. I fondi neri su Mediaset, c'è la Svizzera che sta per aprire un'inchiesta, si indaga poi sulle affermazioni di Martelli, ex ministro ad anno zero di questi giorni, che ha parlato di una trattativa tra Stato e mafia nel 1992, le vicende del PD sembra che Bersani, insomma, sia indirizzato, poi vedremo, verso la vittoria, insomma, per la leadership del Partito Democratico. Se a qualcuno interessasse, è nata la seconda figlia di Gianfranco Fini ed Elisabetta Tulliani. Trichet, il presidente della Banca Centrale Europea, dice che all'Italia servono riforme e uscirete meglio e prima dalla crisi. Ha dato anche però un giudizio abbastanza positivo. Lo dicevi tu, il Nobel per la letteratura alla scrittrice romeno-tedesca Erta Müller. Poi oggi vorrei ricordarlo che in piazza a Roma c'è una grande manifestazione nazionale contro l'omofobia. Il 10 ottobre, sempre oggi, è anche giornata mondiale contro la pena di morte. E poi le ragazze della scherma italiana che sbaragliano ogni poco e sono campionesse mondiali della spada, i mondiali che ci sono stati in Turchia, insomma meglio di così per quanto riguarda le azzurre. Allora, prima di tornare ad Arrigo Petacco c'è Cesare da Latina. Sì, Roberta. Cesare, Roberta, caro, che però dovresti abbassare, anzi spegnere la radio completamente. Spenta. Bene. Sono lontano da una radio. Grazie. Finiamo del tu, sì. Certamente, se sì, gradite, sì, io gradisco. È un piacere, è la prima volta che parlo con te, vabbè. Io sono, è un onore. Sono un ascoltatore abituale. Senti, ho visto che hai fatto l'elenco di tutte le notizie della settimana. Alcune. Ho visto che anche te non hai nominato un'altra notizia che praticamente è passata sotto silenzio. Ecco, fallo tu. Allora, quella io l'ho sentita soltanto una volta a un vostro GR, che alla Camera non è passato un emendamento dell'Italia dei Lavori, dei valori, sulla costituzione di un garante per l'infanzia. Sì. Mi sembrava una notizia abbastanza importante. Mm-hmm. Ebbene, non si è sentito da nessuna parte. Oggi ne sta passata quasi sotto silenzio. L'ho sentita un tigino. Questo è un modo anche di riflessione, scusi, fa informazione, su quali sono le cose importanti, forse in Italia, quali forse si ritengono meno importanti. Sì, ricordo io di averla sentita, di averla vista, così è vero che è passata un po' in sordina, forse perché ci sono anche davvero tanti fatti anche questa settimana un po' preponderanti. Se riesco, mentre parlo con voi, parlo con Arrigo Petacco e rifletto, cerco di farlo, insomma, riesco anche ad andare un po' su internet perché l'avevo sentita, ma non mi ricordo esattamente in cosa consisteva questo emendamento che è stato bocciato, lo ricordo questa settimana effettivamente. Tu ricordi bene, Cesare, di cosa si trattasse? Su internet questa settimana. E poi vorrei fare un attimo un'attenzione pure sul discorso della persecuzione del Presidente del Consiglio. Allora, la magistratura, se lui si sente perseguitato, quindi significa che la magistratura non funziona bene, forse lui o anche il governo deve cercare di fare qualche cosa per evitare questo fatto qui. Ben venga allora a questo punto, se la magistratura non funziona, se la giustizia non funziona in Italia, ben venga che ne risentano queste, diciamo, tra virgolette, persone potenti, perché sono migliaia di persone in Italia, se non sono perseguitate, diciamo in buona fede, dalla mala giustizia, non se ne sa, non passa sempre sotto silenzio. Quindi non penserei una cosa del genere? Cosa dice? Siamo del Leo del tu, allora Cesare. Pronto? Sì, Cesare. Sì. Scusa. Quello che voglio dire, insomma, sì. Allora ben venga se la giustizia non funziona, almeno si mette in evidenza. Però sono decenni e decenni, non si riesce a risolvere questo problema. Certo, ci sono dei casi in cui funziona molto bene, dei casi in cui funziona. Stesso, questo volevo dire io. Un pochettino di se stesso, vittima anche della stessa classe politica che non ha saputo risolvere certi problemi. Questo. E poi se le cose stanno veramente così. Cesare, ti ringrazio e poi vediamo appunto se riusciamo a riprendere una delle agenzie, mi passa Valeria Coffaro che sta prendendo le vostre telefonate, sull'emendamento, vediamo se riusciamo a ingrandirlo per qui piccolo. Allora, questo emendamento dell'Italia dei Valori ha fatto cadere per un solo voto un emendamento dell'Italia dei Valori, il governo battuto è stato in realtà il governo battuto nell'aula della Camera sulla legge per l'istituzione di un garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. L'emendamento con il parere contrario del governo è stato approvato con poco chiaro, quindi in realtà è il governo che non ha approvato, con 250 sì e 249 no. Il risultato del voto è stato accolto con un lungo applauso da parte dell'opposizione. Il presidente di tutta l'aula di turno dell'aula, Rocco Buttiglione, ha dovuto sospendere l'esame. Vediamo se si entra un po' nella sostanza. L'emendamento d'Italia dei Valori alla legge sull'istituzione del garante dell'adolescenza e dell'infanzia è passato per un solo voto di scarto a vantaggio dell'opposizione, quindi in realtà insomma è andato a favore dell'Italia dei valori, però poi vediamo se con calma riesco a venirne a capo, a capire bene in che cosa consiste. Sapete, quando poi si parla di queste cose, delle leggi, degli articoli, è una roba complicatissima, infatti è lungo 200 righe. Intanto torniamo un attimo alle altre cose. Rigo, quindi posso fare un'osservazione? Prego. Allora, intanto, a parte le persecuzioni di Berlusconi, eccetera, che francamente uno che è stato processato 26 volte, che ha avuto in un anno 250 perquisizioni, qualche piccolo segno di persecuzione io lo intravederei. Ma quello che mi stupisce un po' è che tu hai fatto un elenco di notizie soltanto politiche. Ma voi credete davvero che alla gente interessa soltanto questo? No, no, tu anche senti... Anche altri giornali, le prime 5-6 pagine sono sempre piene di notizie politiche, ci dicono cosa ha fatto Mastella, cosa ha fatto quello. Alla gente non gliene frega niente. Dici, Enrico, ma comunque... Alla gente interessano le cose più della vita normale. Perché non si raccontano più processi? Per esempio, i processi, la cronaca nera, forse perché io parlo che sono un vecchio cronista di cronaca nera, i giornali una volta venivano comprati solo per questo, soprattutto per questo. C'era un articolo... Mi ricordo la notte che era specializzata in questo. Fondarono la stampa, il senatore Frassati chiamò il direttore e disse: faccia questo giornale, mi raccomando, in prima pagina un bel articolo di critica al governo, in terza pagina un bel articolo di un professorone che nessuno leggerà, e poi mi raccomando, cronaca nera e processi, perché alla gente interessa soprattutto le cose della vita. Sì, sappiamo, sangue, spettacolo e sesso. Farà altro, direi, vorrei aggiungere, non si scoprono neanche più i diritti. Vi rendete conto che da diversi anni, da quando hanno modificato il sistema di procedura penale, da quando sono i PM che fanno gli investigatori e non più i vecchi poliziotti che conoscevano il loro mestiere, non si scopre più un delitto? Ma vi rendete conto perché? Io ve lo spiego anche perché. Perché gli investigatori che prima perlomeno avevano l'onore della cronaca quando risolvevano un caso, ora dovendo lavorare lo stesso, però poi in televisione ci va il PM e loro diranno al PM: dottor, mi dica che devo fare. Si sono demotivati e infatti i delitti non si scoprono più, tanto più poi che con il nuovo sistema il sospetto, perché sapete il delitto si scopre nel primo, l'assassino si scopre nel primo 48 ore, sì. Se lo si perde. Oggi ormai non si fa più questo, il sospettato viene immediatamente messo da parte, ha messo a contatto col suo avvocato, tranquillizzato, e alla fine questo, anche se lì per lì avrebbe confessato, non confessa più, come sta accadendo negli ultimi processi che noi sappiamo. E poi viene fuori il cavillo, qualche cavillo, che riescono sempre a mandare in fumo tutti i processi, non si risolve più un delitto da anni. Ma non proprio così, non sparerei a zero, guarda, completamente il rigo, però la confessione piena non si risolve più un delitto, si frantumano in mille rivoli Ecco, un caso arrivo è quello di Garlasco, che ogni giorno viene condannato, alla fine con tutti i condoni che ci sono, fra due anni te lo trovi a passeggiare sotto la tua finestra. Questo è vero, soprattutto per quanto riguarda gli stupratori, mi viene in mente. Comunque, 800 24 0024, il numero verde, ovviamente io lancio lì un po' di notizie, ma gli ascoltatori, lo ripeto sempre, possono prendere qualsiasi fatto della settimana e commentarlo secondo le loro libere opinioni. Carmine da Napoli, e io mi faccio guidare un po' dagli orientamenti, dalle curiosità, dalle opinioni. Sì, eccomi qua. Sono Carmine. Sì, ciao. Presente, ciao Carmine. Senta, Roberto, vorrei parlare della consulta. Sì. Se mi è consentito, Franceschini ha gioito terribilmente che dice adesso ogni italiano vicino alla legge è uguale per tutti. Siccome io ho atteso vanamente per sapere l'esito della consulta, sì, quando sono uscito quei 12 persone, poi dico perché Franceschini ha gioito, mi sono un po' rabbrividito, non conoscevo la consulta in che misura era. Ho visto gente di 77-78 anni, non dico ci volevi bastone, ma quasi. Allora vorrei dire, se io sono un pensionato e mi obbligano ad andare in pensione 65-66, sì, perché quei signori ancora a 78 anni fanno servizio? C'hanno qualche cosa differente dagli altri italiani che Franceschini si batte per dire vicino alla legge siamo uguali per tutti? Cioè il pensionato normale, come il muratore che può fare il muratore fino in età, perde la forza. Sì. Io a 65 anni c'ho, a 66 penso che non riesco ad avere la stessa intelligenza. Com'è che quei signori, con tutta la cultura, la Carmine, stessa, scusa, per loro, scusa, scusa se ti interrompo, riescono ancora a decidere le sorti di un paese? Carmine, scusa, ma il Presidente del Consiglio quanti anni ha? Io? Non tu, il Presidente del Consiglio, non vorrei fare parlare. Il Presidente... Benissimo, io sapevo che mi avresti detto questa domanda qua. No, ma lui, ma come la gran parte della classe politica. Ce n'è quasi 6 in meno, in effetti. Di te. Esatto. A 78 perciò gli sto facendo le ogni anno pensa che il cervello lascia desiderare. Non si completa da me, lascia immaginare a 78 anni, però io quindi dico ci io lo posso perdere perché non condanno nessuno. Ma vuole che debbano condannare qualcuno? Beh, insomma, me... comunque Carmine, scusa, insomma, non ritengo questa storia dell'anagrafe così centrale. Si spera che siano a quell'età un pochino più equilibrati, che abbiano più esperienza, che siano un po' più come si può dire, saggi, ecco. E poi diciamo che quella della gerontocrazia in Italia, cioè diciamo nel dominio un po' in tutte le aree di persone con un'età avanzata, uomini, ecco, è un problema di cui si dibatte da tempo, non perché una persona che abbia superato una certa età non abbia più valore o capacità, ci mancherebbe, si dice rinnoviamo un po', mettiamo anche delle occasioni alle persone più giovani e direi in particolare alle donne, ce n'è una sola, lo ricordo, nella consulta di donna. Barbara da Pisa. Sì, vorrei dire che quello che il Presidente del Consiglio ha detto alla Bindi è appropriato, perché è una donna arrogante, maleducata, che interrompe sempre quando parla con l'avversario, interrompe sempre per non lasciar passare parlare l'avversario. La saluto, arrivederci. Grazie Barbara, questo è il giudizio lapidario di Barbara, anche se secondo me si può dire anche un'altra roba se una interrompe, se fosse così, diciamo, quello è il problema. Rieccoci insieme, Roberta Giordano con voi, numero verde 800 24 0024, come sempre per commentare insieme le notizie della settimana con le vostre libere opinioni. E poi in collegamento c'è giornalista, scrittore, inviato speciale, ex direttore della Nazione, Arrigo Petacco, che ha pubblicato quest'ultimo libro con Mondadori, Il Regno del Nord 1859, il sogno di Cavour infranto da Garibaldi. Ho sentito che molti ascoltatori, mi diceva Valeria dai telefoni, chiedono di poter parlare del libro, ma come sapete sempre la mia formula è quella di soffermarci sulle notizie della settimana. L'autore ne parla brevemente all'inizio, poi però insomma, siamo insieme un po' per ritornare sui fatti di questi giorni. Arrigo, tu vuoi dire qualcosa sulla frase imputata, quella di Berlusconi rivolta alla Bindi? No, ho già detto, è stata una frase infelice, no. Anche se noi uomini quando siamo fra di noi sulle donne abbiamo sempre dei commentini piuttosto pesanti. L'altro che non è stato ricordato dalla signora di Pisa, un po' arrabbiata con la Bindi, vorrei ricordare che quella stessa sera, non so se l'ho ripetuto prima perché ero confuso nella trasmissione, nella stessa sera il ministro Castelli ha definito la Bindi una zitella petulante. Insomma, anche quello sembra... non mi sembra un bel complimento. No, direi... Nessuno l'ha notato. Direi proprio di no. Evidentemente sì, beh, poi Berlusconi, Presidente del Consiglio, accentra sempre un po', no, la scena, e... però anche questa è una cosa, io direi, estremamente volgare. Non mi pare che le donne nei confronti degli uomini, soprattutto poi in politica, dove bisognerebbe dare, diciamo, un po' il buon esempio e far salire un po' il livello del rispetto delle istituzioni, non mi sembra che le donne rivolgano di questi epiteti o queste frasi agli uomini e ai colleghi politici. Insomma, al più dicono scusa, lasciami parlare, oppure altre cose, o vanno su questioni appunto strettamente politiche. Francesca dalla provincia di Milano. Oh, buongiorno dottoressa Giordano. Buongiorno Francesca, ti do del lei, allora ci diamo del lei. Come dice? Ci diamo del lei? No, allora, vuole che ci diamo del tu. Diamoci del tu, Francesca. È la prima volta, anche se ci conosciamo per telefono da molti anni. Ah sì? Sì, da quando lei faceva il diario del giorno. Ah, beh, sì. Non si ricorda di me, sono una piemontese, sono quella da Valditusa. Sì, sì, l'accento lo ricordo adesso. Ecco, Francesca. Lei ha una voce inconfondibile, guardi. Anche raffreddata, grazie. L'ho ritrovata girando così le frequenze radio, ho sentito la sua voce e ho detto, è la dottoressa Giordano. Sei molto ha gentile. Una voce che è impossibile trovarne un'altra uguale, bellissima. Modestamente vero. Vabbè, parte... no, è vero, mi ricordo anche le poesie che recitava alla fine della trasmissione. Bei tempi anche quelli, proprio non ci sono più le mezze stagioni. Sì, ma comunque... solo ieri, dai. Sì, sì, è soltanto ieri. Francesca, quindi tu su cosa sei interessata a intervenire? Ecco, su quanto ha detto Silvio Berlusconi alla Rosi Bindi. Mm. Ho sentito adesso appena poco, perché si sente poco, quanto ha detto il signore di prima, no? Sì. Una frase infelice, detta da una persona maleducata. Qualunque essa sia, può essere una persona, un uomo della strada, qualsiasi. È una frase da persona maleducata. Però mi ricollego anche, mi viene in mente subito, sì, quanto aveva detto Silvio Berlusconi a proposito delle donne che venivano aggredite di sera, così aveva detto, e vorrà dire che dovremmo mettere una guardia del corpo ad ogni bella donna che c'è in giro. Sì, e quelle brutte no? No, quelle brutte no, evidentemente. Non so. Ma insomma, e poi ho sentito un'altra cosa. Non sono passibili di violenza. Così, di una donna che ha detto: ah, Silvio Berlusconi ha detto questo alla Rosy Bindi, allora lui è più alto che intelligente. Più alto che educato, è la Melandri. Che intelligente, questa qua ha detto, io guardi, riferisco solo quanto ho sentito, perché io sento qua, lì, là, là, poi mi faccio la mia opinione. Ecco, una persona maleducata, estremamente maleducata. Grazie Francesca, invece è molto simpatico il tuo accento soprattutto. Maria Vittoria da Roma, sentiamo un'altra donna. Maria Vittoria. Buongiorno. Posso darti del tu, vero? Diamoci del tuo, è una richiesta, allora, io senti, subito accolgo. Io ho 60 anni, non sono una bambina, non sono una politica, però sono del PDL. Sì. Io onestamente trovo che tutta questa bagarre che sta succedendo, che ha creato anche la signora Bindi, cioè noi andiamo a sottilizzare su una frase, lui purtroppo dà delle battute che lui vorrebbe fossero scherzose, e vengono prese in un modo drammatico. Poi quando gli si dà del mafioso piripà, diventa un affare nullo, perché è normale, Don Silvio da Corleone eccetera eccetera. Ma perché non guardiamo un attimo a quello che ha fatto da quando è il governo fino a oggi, e ci attacchiamo solo al fatto che la prende in giro per non offenderla? Perché secondo me è stata più una presa in giro che un'offesa quella battuta. Ha sbagliato a prenderla in giro? Ok, ma allora tutto quello che gli dicono e tutto quello che gli fanno, che vogliamo fare? Guardiamo però ai fatti. Io trovo che diventiamo tutti delle vecchie pettegole che ci, non lo so, ci diamo la zappa sui piedi da soli, non trova? Ma se chiedi il parere a me, Maria Vittoria, ti dico che secondo me certi modi di rivolgersi alle persone in genere, in particolare poi appunto così nell'arena del Parlamento e della politica di fronte alle italiane e agli italiani, forse, credo, sarebbe bene evitarli. Uno può anche essere il miglior capo di Stato o primo ministro, che nulla giustifica poi il fatto di rivolgersi in modo, direi, poco educato, poco carino, vogliamo dire così. Cristina da Messina. Pronto? Cristina, eccoci qua. Ti sento benissimo. Sono Tina io. Ah sì, volevo dirle che io sono una bruttona di 76 anni. Oh. Io ho sofferto tanto nella mia vita per queste discriminazioni. Altro che razzismo tra belli e brutti. E al signor Berlusconi vorrei chiederle se si sente bello, se è merito suo. Ma è bello Berlusconi? Sono brutta, è colpa mia. Tu, mi risponde il signor Berlusconi. Io di queste offese ne ho ricevute per tutta la vita e continuo ancora a riceverne, perché la mia presenza non è molto piacevole, non è molto gradita, perché la gente non ti guarda quello che hai dentro, ma quello che sei fuori. E la sofferenza che ho avuto io tutta la vita non lo può capire nessuno. Il signor Berlusconi impari a parlare, lui che si sente il presidente di tutti gli italiani, presidente anche dei brutti. Cristina, questo intervento non me lo sarei mai aspettato, ti ringrazio, e non credo che nessuna persona sia così brutta, neanche il gobbo di Notre Dame, insomma, da doversi sentire in questo modo, da dover essere disprezzata. Io non ci credo, anche da quello che sento dalla tua voce, dal tuo modo di parlare. Comunque, insomma, questo è quello che pensa Cristina, e che un po' come il Nobel a Obama, adesso voglio fare paragoni, non mi sarei davvero aspettata di sentire. Cosa pensi, Arrigo? Ma Roberto, purtroppo è sempre un po' stato così, perché i brutti sono sempre stati un po' trattati male rispetto ai belli. Agli uomini si perdona però, di essere brutti. Io ricordo che qualche anno fa, poverina, la Adele Faccio, non so se la ricordi, sì, certo, il deputato radicale, che non era bella neanche lei, propose una legge in cui doveva imporre che negli uffici le brutte fossero trattate bene, cortesemente, come le belle. E la legge non è passata, ovviamente, perché purtroppo queste cose è la natura che ci porta a corteggiare le belle e non le brutte, o i belli e non i brutti. E cosa facciamo? Facciamo una legge che dobbiamo trattare allo stesso modo la bella e la brutta? No, io direi che non dovrebbe essere necessaria una legge, ma il buon senso, l'educazione, un po' di sensibilità. È la buona educazione che conta, non, la buona educazione in questo caso Berlusconi ha commesso, ripeto, ha pronunciato una frase infelice che purtroppo gli uomini, quando possono, che sono fra di loro, le ripetono contro le donne, perché c'è questa forma di superiorità che atavica, che ci porta sempre a ridicolizzare la donna anche quando quella vuole mettersi alla pari di un uomo, ed era anche superiore a un uomo. È difficile risolvere questo problema. Allora, io direi che, Rigo, ci prendiamo questo appuntamento invece di pausa tra una telefonata e l'altra, numero verde 800 24 0024. Vorrei anche che magari qualche ascoltatore, qualche ascoltatrice mi facesse un elenco possibilmente puntuale dei begli uomini della politica italiana, e intanto ne inviterei un altro che secondo me è piuttosto piacevole. Il bel colonnello Mario Giuliacci. Ciao Roberta. Ciao Mario. Buongiorno a tutti, non dico buonasera, quindi sono costretta a piegare la testa e fare la mossa. Mario, tu sei stato molto, molto corteggiato in vita tua? Ma sai, io non ho grandi virtù dal punto di vista estetico, però credo, sai, come tutte le persone che non si ritengono piacioni, no? Tirano fuori un'altra arma, quella della simpatia. Io credo, almeno così mi dice la gente che resto molto simpatico. Adesso mi estremamente autonomo. Simpatico Mario allora Giuliacci. Credo che dovremmo imparare, laddove riteniamo che il nostro fisico non sia proprio il meglio del meglio, a tirar fuori le nostre armi interne, no? Voglio dire, risultare comunque gradevole. Ecco, questo è il mio sforzo, l'ho sempre praticato. E ci sei riuscito benissimo. Spero. Mario, allora, non so se ti abbiano corteggiato anche per le tue doti previsorie, diciamo, sul clima. Quello ovvio, perché voglio dire... Uno si pone di fronte alla gente come meteorologo, quindi quando mi incontrano per strada mi riconoscono come tale, quindi poi si innesca subito sempre la richiesta. Certo, no. E quindi anche tu oggi, suppongo, vorrei sapere proprio quello che voglio fare con farà. Te, sì, sì. Allora diciamo che tanto il tempo è migliorato decisamente sul Piemonte, Liguria, Lombardia occidentale, invece ancora brutto sul Dolomite, Venezia, l'est della Lombardia, l'Emilia Romagna e un po' tutte le regioni centrali, quasi tutte le regioni centrali, eccetto l'Abruzzo e il Molise, bello ancora al sud, sulla Sardegna. Questa è un po' la visione di oggi. Che cosa capiterà domani? Perché abbiamo ancora un altro giorno, no? Del fine settimana, la domenica. Bene, domenica si invertono grosso modo le parti. Domani sarà bello, deciso su tutto il nord, sulla Toscana, sulla Sardegna. Invece avremo ancora delle piogge sul resto d'Italia, sia Marche, Abruzzo, Molise, Umbria, Lazio e su tutto il sud. Poi nella serata di domani migliora ovunque, ma ormai la festa è finita e tutti quanti saranno arrabbiati perché diranno: poteva migliorare prima, no? Questo tempo invece no, migliora proprio quando tutti quanti ritornano a casa. Però attenzione, la prossima settimana probabilmente farà parlare di sé, perché già lunedì ritorna un'altra giornata brutta su tutto il centro-sud. Martedì tornerà il bello, ma tra mercoledì e giovedì probabilmente arriverà il primo freddo di stagione, tant'è che le temperature scenderanno su tutta l'Italia sotto i 20 gradi addirittura, sulla regione di nord-est anche intorno tra i 15 e i 18 gradi, quindi insomma bisognerà forse tirar fuori più di un maglioncino pesante, diciamo. Ecco. Bene, caro colonnello, allora vedremo un po' poi quello che succederà, ma queste sono le previsioni in genere attendibilissime del colonnello Mario Giuliacci. Mi raccomando, bene, perché la prossima volta ti voglio sentire con la voce squillante. Speriamo, perché no? Se viene il freddo qui si prolunga la mia influenza, il mio malessere. Appunto. Mi coprirò a dovere. Caro colonnello, evviva la simpatia. Grazie anche la tua. Ciao Mario. A tutti gli ascoltatori, buongiorno. Sempre in collegamento a Rigo Petacco, che ha scritto il libro Il Regno del Nord 1859, il sogno di Cavour infranto da Garibaldi. Roberta Giordano sempre con voi, abbiamo ancora poco meno di un quarto d'ora insieme, quindi se avete delle notizie sulle quali volete tornare e fare le vostre riflessioni in piena libertà, 800 24 0024. Patrizia da Milano. Salve, buongiorno. Buongiorno Patrizia. Niente, io ho sentito le due signore di prima, che per una era colpa della Bindi. Per l'altra, insomma, poi scherza, questo signore scherza sempre. Però io penso che questo signore non conosce l'educazione e non sa cosa significa rispetto degli altri. Quindi io sono stufa di avere un primo ministro che scherza sempre. Questo tutto ha scherzato. Cioè, è ora di finirla. A me non, anche quando, per esempio, quando era lì da Michelle Obama, no? Cioè, lui voleva dimostrare che ammirava quella donna, ma per me ha fatto un gesto volgarissimo. Cioè, per me l'ha offesa come si è. Cioè, proprio la mimica. È stato. Cioè, ha agitato un po' le braccia e si è un po' abbassato con la testa verso. Sì, cioè, non era. Lui pensava di fare un complimento, ma un complimento, logicamente, da una persona che considera le donne come le considera lui, insomma. E quindi anche quando fa un complimento risulta offensivo, secondo me, perché ha una visione della donna, insomma, un pochettino sbagliata, secondo me. Forse anche le persone che lo circondano l'hanno convinto che va bene così, però, insomma, io penso che dovrebbe capire che non tutte sono come lui e le persone che lo circondano, e quindi dovrebbe rispettare le donne di questo paese, ma anche quelle degli altri paesi, perché quando va all'estero fa lo stesso. Patrizia, ti ringrazio. Questo è Patrizia da Milano. C'è Enzo da Roma adesso. Enzo. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a te. E niente, volevo rispondere a quel signore di Napoli, il fatto che diceva che Carmine. I giudici di della Consulta sono anziani, ma secondo me, cioè, la Consulta è l'ultimo baluardo, diciamo, di una difesa di un qualche cosa, e secondo me non credo ci possa essere un ragazzo di 25 anni che c'è un organo di garanzia, ecco, questo. Sì, in pratica sì, diciamo il saggio, come è stato detto da qualcun altro. E poi il fatto che il nostro presidente sia, diciamo, un po' come dire, gogliardico in queste sue uscite, che forse lui crede che siano brillanti, ma ogni volta non ci azzecca mai, insomma, ecco, tutto lì. Il fatto della Bindi, il fatto al G8 che fa dei gesti mentre fanno fotografie insieme con gli altri presidenti di Stato, insomma, tutte quelle cose lì che secondo me non è proprio una gran bel visione. E poi un'altra cosa, sicuramente come uomo non lo apprezzo molto, ma come politico secondo me è imbattibile, specialmente sul lato mediatico, è proprio il suo terreno, e secondo me è fortissimo, però poi purtroppo si perde su queste cose che sinceramente mi ha stufato, e non sono del suo schieramento, però l'ho votato purtroppo, e questo è il risultato. E forse come me ci saranno anche altre persone. Avremo modo, Enzo da Roma, poi prossimamente di verificare anche questa cosa. Però prima di un altro appuntamento irrinunciabile, qui non ci sono più le mezze stagioni, io volevo chiederti, Arrigo Petacco, leggevo questa notizia questa settimana veramente particolare. A Gaza, no, nei territori palestinesi, lo zoo non può permettersi le zebre, dopo che ne sono morte le uniche due che c'erano, hanno preso degli asini, li hanno pitturati di strisce bianche e nere, un po' la Juventina, così come sono le zebre. Questa cosa mi ha fatto sorridere, a parte per la tenerezza. Poi dopo invece un sindaco vicino a Tel Aviv israeliano ha detto: vabbè, regaliamogliele noi due zebre, che insomma è bello, no, in un contesto così in conflitto da tanti anni. Mi viene quasi in mente che sia una metafora anche della nostra società, che a volte quando non ci sono le zebre si tingono gli asini di bianco e nero. È possibile? È vero, infatti si dice, c'è un modo di dire, deve essere politicamente corretto. Politicamente corretto è una cosa che deve essere, che è una bugia, ma che bisogna dirla, usarla per non innervosire l'interlocutore. E questo vale un po', è una regola che ormai purtroppo è molto diffusa, nessuno dice più quello che pensa, ma parla in maniera politicamente corretta, anche se l'avesse fatto l'altra sera Berlusconi avrebbe fatto bene. E questo però è una cosa. Però io volevo fare prima di tutto un appunto all'amico Giuliacci. Io sono in Liguria, abito a Porto Venere, nelle Cinque Terre, e piove. Oh. E lui invece ha detto: non è che la nuvoletta di Fantozzi lì. Anche i meteorologi devono essere un po' con le molle, come sanno tutti quelli che ascoltano le previsioni del tempo. Poi dopo mi metto in collegamento con Giuliacci, ma adesso, Arrigo, vorrei dare spazio anche un altro personaggio. Il personaggio Valerio Della Valle, linguista della Sapienza di Roma, che ogni volta ci illumina con la sua sapienza, proprio di Sapienza di Roma, su alcune espressioni, termini che hanno caratterizzato i fatti dell'ultima settimana. In questo caso, per esempio, avete sentito continuamente lodo Alfano e anche lodo Mondadori. Che lodiamo con questo lodo, Valeria? Ecco, è una parola di grandissima attualità, purtroppo non è chiarissima a tutti gli italiani nel suo significato e spiegherò anche perché non è chiarissima. Vado veloce sulla storia antica, è una parola davvero antichissima, ce n'erano già degli esempi nel 1976 col significato di giudizio scritto e se la cerchiamo nei vocabolari vuol dire sentenza arbitrale oppure soluzione di una controversia che viene proposta da un personaggio autorevole. Chi è meno giovane ricorderà per esempio il lodo De Gasperi, che cos'era? Era una proposta di soluzione mediatrice su questioni di politica agraria. Quindi ecco che il significato di lodo in realtà è quello di una sorta di documento compromissorio, il frutto di una mediazione tra parti diverse. Così sono nati il lodo Schifani e poi il lodo Alfano, ma con la differenza che poi questi che inizialmente erano lodi poi sono diventati leggi, che però l'uno e l'altro sono stati dichiarati incostituzionali. Ecco, allora ci si chiede perché continuare a chiamare lodo qualcosa che in realtà, che sia passata o non sia passata, in realtà sono leggi. Nel linguaggio anche giornalistico si è mantenuto questo termine che ha finito per cristallizzarsi no? E quindi continuare a nominarli come lodi e non come leggi. Per concludere, sempre in grande velocità, scusami, voglio ricordare una cosa, così per concludere un po' certo, più sorridendo, oppure traendo le varie conclusioni, ognuno la sua, che nell'italiano antico lodo era anche un'altra cosa, una variante di lode, tanto che Dante la usò in quei versi famosi, nel terzo canto dell'Inferno, in cui diceva l'anime triste di coloro che visser senza infamia e senza lodo. E ora ricordo solo, e poi ognuno commenterà come vuole, che in quel caso si riferiva agli ignavi. Chi sono gli ignavi? Quelli che non sanno operare il bene per viltà. Chiudo qui. Grazie Valeria Della Valle. Grazie a voi, arrivederci. La donna più veloce, anche più intelligente del West, è anche bella Valeria Della Valle, che non guasta, ma non è ovviamente criterio vincolante. Si può essere anche bruttissimi, intelligentissimi, oppure bellissimi e per niente intelligenti, oppure tutte le cose. Poi siamo così pieni di sfumature, sinceramente. Allora, io direi Arrigo Petacco, in questi pochi istanti che ci rimangono alla conclusione per questo sabato, hai voglia di ritornare su qualche fatto o un tuo commento conclusivo? All'odo, per esempio, volevo dire che le parole purtroppo col tempo cambiano il significato. Certo. Per esempio, una volta laico significava un cristiano che non portava la tonaca. Oggi laici sono quelli che non sono credenti o comunque lontani. E ora laico intendi tutte le cose che in realtà nel significato originale della parola significava semplicemente un cristiano che non indossa la tonaca, che non ha gli ordini religiosi. Certo. E questo vale per tante altre parole che ora usiamo in maniera scorretta secondo l'origine, o come tante parole inglesi che gli inglesi neanche conoscono e che noi le usiamo in inglese tranquillamente credendo di parlare inglese. È una cosa, è il linguaggio che è sempre in continuo movimento, meno male. Beh, appunto, meno male, no? Noi ci evolviamo, cambiamo, la società cambia. Camminano con le gambe degli uomini, si cambia il significato, ci sono tante altre parole che hanno cambiato il significato e tante parole inglesi che sono entrate nel nostro linguaggio, anche se ci sarebbe la parola italiana per dirlo. Arrigo, prima di chiudere, questo è un dibattito che è significativa, eppure non lo usiamo perché noi siamo dei provinciali, metterei qualche parola inglese. Una volta usavano il latino, ora il latino non lo sa più nessuno. Allora no. Uno, ma è un dibattito linguistico questo che abbiamo fatto varie volte. Arrigo. Abbiamo capitato una volta con un dirigente dell'azienda che parlava ai suoi uomini e diceva perché il nostro breakfast e io dico, papà, che breakfast, vuol dire colazione, volevi dire... Ma mangiamo questa colazione. Arrigo, ascoltami, questo è il nostro linguaggio. Però. In questi 3 secondi che rimangono, 3 secondi, Arrigo, non di più, dimmi il nome di un politico bello italiano. Ah, di una politica bella te lo lo dico, ma belle a me gli uomini non mi è mai interessato nulla. Ma dai, le donne sanno dire se una donna è bella, sensuale, attraente, lo sanno dire anche gli uomini. Eh? Chi è? Chi è? La Presti Giacomo, ministro. No? Ma che c'è? Ho detto, no, lei è una ministra, un uomo politico. Gli uomini politici mi dicono che Casini è bello. Sì, non è vero? Ma lo devi sì. dire tu. Era più, bello prima. Non possiamo dire tutti, Riccardo, non facciamoci di questi problemi. Vedevo gli uomini belli e li consideravo dei miei concorrenti in amore. Poi scoprivo che invece la mia ragazza non piaceva affatto. Certo, ognuno c'è il gusto di signore che assolutamente non mi interessavano, mentre quelli che piacevano a me lei non se ne accorgeva. Ma sì, ognuno ha i suoi gusti, a me può piacere una donna che a un uomo non piace per niente. Va bene, Arrigo Petacco, chiudiamo allora qui, ti ringrazio di questo appuntamento ricco come sempre, pieno di tante cose, di tanti punti di vista. Roberta Giordano vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo sabato. Domani c'è Storielle dalle 19 alle 19:30 con Umberto Tozzi, ci facciamo questa chiacchierata. Intanto sereni orizzonti a tutti.